9. Salve, se ha ascoltato... If you've heard... Se ha ascoltato le 8 unità precedenti... If you've heard the previous 8 units... Conosce bene la storia di Sara e della sua visita a Firenze per la festa del vino a Greve in Chianti. Then you know the story of Sarah and her trip to Florence for the wine fair in Greve in Chianti. Ma se non conosce le unità, ascolti un riassunto. Listen to a review. Un riassunto della storia fino ad ora. A review of the story so far. Sì, adesso ascolti un riassunto della storia fino ad ora.